Andiamo a Modena da Davide. Pronto, Davide? Ciao, sono Davide. Ciao, senti Davide, tu cosa hai fatto? Hai venduto o hai regalato qualcosa? Io ho venduto su eBay una tenda igloo con la quale ho fatto un sacco di cose quando ero giovane, adesso ho 39 anni, due figlie, chiaramente certe cose in moto non si possono più fare. Però avevo una tenda perché ci andavi in moto? Ci andavo in moto con quella tenda lì, non ho fatto e avrei voluto fare tante cose, che poi immagini te cosa. Immagino, e a chi è andata adesso Davide? Non lo so, l'ho venuta su eBay, è un ragazzo, spero che la usi meglio di me, sicuramente, perché io a casa con due figli non riesco più a fare niente. Speriamo che sia in giro anche in questo momento. Davide, grazie mille, buona giornata, ciao. Magari era uno dei suoi desideri, mentre i miei desideri che realizzerò con tutti i soldi che sto facendo sono questi qua. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi, scalare il Monte Rosa, attraversare l'Atlantico su una nave cargo, lanciarmi col paracadute da 6.000 metri, sposarmi a Las Vegas, non importa con chi, giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo, portare a cena fuori Natalie Portman, fare un viaggio in mongolfiera, spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli, imparare a suonare la batteria, incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama, fare un viaggio con la Transiberiana, vedere una finale del Super Bowl, vedere il Taj Mahal, attraversare la foresta amazzonica, vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada, imparare il cinese, imparare l'arabo, prendere il brevetto da pilota e quello da sub, e poi imparare a camminare sul filo. Mi chiamo Marco, l'onomastico è il 25 di aprile. Quando ero piccolo pensavo che io, mia mamma e i miei fratelli stessimo a casa per me e non per la festa della liberazione. Grazie a Laura, grazie a Tiziano, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. Il ciondolo è sul sito, come al solito. Domani vendo una Magnum di Franciacorta. Se avete degli schemi, rompeteli. Se avete smesso di festeggiare il vostro onomastico, invece, ricominciate a farlo, che i nomi sono sempre i nomi.